Questo disco nuovo e il concerto sono sesto lavoro ormai. Sesto lavoro, il concerto sono sicuro sarà bellissimo. Ascoltando per. E tra l'altro il disco è uscito, se non mi sbaglio, a mezzanotte. Sì, sì, è proprio appena uscito, cioè, diciamo che ha la bellezza di 15 ore al momento. E, immagino già parecchi se lo saranno sentito sulle piattaforme, magari anche scaricato. Ci sarà anche il formato, il CD? Allora, innanzitutto appunto è uscito in digitale, abbiamo il disco, domani ce l'abbiamo in CD per il vinile, ecco. La stampa arriverà in primavera perché ormai il vinile è molto richiesto, quindi i tempi d'attesa sono veramente dilatati, ma arriverà anche quello, tanto è molto bello perché sono particolarmente felice per, lasciamelo dire subito, dalla copertina che è fatta da un artista cinese che vive a Venezia da tanti anni, Ching Tong, che tra l'altro è in queste settimane si può anche vedere la Pinacoteca qua a Bologna. Ah, ecco, vedi, quindi se non mi sbaglio c'è anche l'opera da cui è tratta la copertina. Esatto, quello dicevo, c'è l'opera da cui è tratta la copertina, con cui in esposizione la Pinacoteca, sì. Ecco. Senti, invece, rispetto alla musica, il primissimo ascolto che ho dato io, la cosa che mi balza un po' all'orecchio è magari voi siete un gruppo con un suono molto identificabile, no? C'è questa base ritmica favolosa, c'è la tua chitarra che racconta storie e secondo me in questo disco suono meno muscolare. Alcune cose forse più intimistiche, se vogliamo, c'è un suono, sono molto d'accordo, un suono più essenziale. Non avevamo bisogno, voglia di mostrare i muscoli, perché non c'era letteralmente il bisogno. È un disco figlio del momento, di questi anni che sono intercorsi tra l'ultimo album vero e proprio in studio, che è Ghibli, perché dopo in mezzo ci sono stati altri singoli, c'è stato un EP, c'è stato un album di remix, eccetera eccetera, ma non c'è stato un vero e proprio disco, no? Certo. E questi anni qui sono stati ricchi di vita, e la vita è fatta di tante cose, di cose facili, di cose molto difficili, di grandi risate, di fendenti che la vita ogni tanto mena all'improvviso, e di conseguenza sono stati anni di crescita, no? Perché alla fine l'importante è far tesoro di tutto. E in questo lavoro qua ci tenevamo che ci fosse tutto questo, che ci fossimo noi. E poi posso dire, Pier, in ultima analisi viviamo un momento storico estremamente complesso, e la cronaca ogni giorno ci porta sotto gli occhi veramente notizie disgustose, proprio tutti i giorni la cronaca, la politica, proprio ormai è tutto mischiato, non si capisce più il confine, come dire, tra quella che è la pura cronaca, tra quella che è l'attualità politica, perché le cose si mescolano in maniera veramente raccapricciante. E la difesa per noi, l'antidoto, non è solo banalmente la musica, ma è il dentro di noi, cioè l'equilibrio nostro, sono le nostre esperienze, sono l'amore, l'affetto che riusciamo a ricevere e dare tutti i santi giorni, l'idea dei piccoli gesti, è l'idea della ricerca interiore, della crescita personale, del fare del bene nel piccolo. Ecco, tutto questo era chiuso nel titolo, che è Behind the Eyes, che non vuol dire altro che la parte più autentica, diciamo, di noi, ed è tutto quello che è dentro un po' la nostra testa, sogni, aspirazioni, anche frustrazioni, anche sconfitte, ma si va, la vita è fatta da tutte queste cose qui. Quindi per quello che è un album per certi versi un po' più meditativo, se vogliamo, ma è proprio quello che ci volevamo fare. Sì, hai detto delle cose molto belle, tra l'altro, e magari la musica non è che faccia delle cose per cambiare le cose direttamente, però magari ti può aiutare a cambiare tu dentro, o ad essere in uno stato particolare, ad essere più disposto a dare amore a chi ti sta vicino e non solo, e a provare empatia per chi è diverso da te, per chi prova esperienze diverse. Hai toccato uno dei termini che mi è più chiaro e più caro, che è l'empatia, ed è un termine che proprio ne avremmo estremo bisogno. Guarda, ho avuto tante fortune nella vita, e una di queste è stata conoscere Graham Nash. Ah, vero? Graham Nash, quello che scrisse Teacher Children, Crosby, Stills, Nash, Young, ecco, uno di quelli che dice che la musica può cambiare il mondo. E mi ricordo, lo disse pure quel giorno che passammo insieme, ho avuto la fortuna di passare con lui, insomma, qualche giornata nella mia vita, E diceva questa cosa, continuava a ribadire l'importanza della canzone, ma non è perché, come dire, potrebbe essere che falsamente uno si vuole attribuire dei meriti in quanto artista, no, non era proprio quello, lo spiegava anche bene, ed è una cosa che in quel termine ho avuto a far mia. Semplicemente l'artista non è altro che un veicolo per appunto trasmettere, appunto veicolare alcuni concetti, alcuni, se vogliamo, anche ideali. E questi ideali hanno bisogno di essere raccontati, il punto è proprio non darli mai per scontati. Se una canzone in qualche maniera smuove le anime, se una musica tocca il cuore, bene, vuol dire che ha fatto sì, socialmente, in un senso anche profondo e intimo, ha fatto anche, se vogliamo, anche politicamente. No, sono d'accordo, tra l'altro poi è ovvio che non si vuole togliere nulla al genio di chi le canzoni le scrive, ma una volta che le canzoni vengono fatte ascoltare agli altri diventano loro, cioè perdono sì, un po' la paternità, diventano di tutti, patrimonio comune. Beh, è come tuo figlio quando fa 18 anni, è uguale. Esatto. Senti Aldo, per tornare sul disco che ascolteremo massicciamente qui a Pandemonium in radio da adesso in poi, proprio freschissimo, e lo si può ascoltare domani anche dal vivo, dai vostri strumenti, dalle vostre mani, all'Estragon di Bologna in via Stalingrado. Un'altra cosa è, ho detto prima, quando fate strumentali è la tua chitarra che segna la melodia e racconta le storie, ma in questo disco, diversamente dai precedenti in cui la voce era abbastanza sporadica, c'è anche la voce che racconta storie, e non è una voce di un ospite, è una voce proprio interna al gruppo, una voce che insomma forse non ci si aspettava. Beh, grande Pier, grazie di questo, sì, perché, come dire, diciamo, il pensiero è tutto questo qui. Innanzitutto la voce è quella di Youssef, il nostro batterista, che è presente in 3 pezzi, in ben 3 brani su 10 del disco, e siamo in 3 a suonare, no? Come sì, dire, ogni tanto abbiamo il nostro tastierista con noi, Nicola Perruco, ma di base siamo in 3. È giusto far fondo a tutte le risorse che abbiamo, comprese la vocalità. Abbiamo la fortuna di avere Youssef che anda molto bene in casa, facciamolo. Poi, come dire, la voce è la voce, no? Era un modo anche per, appunto, a parte che per esprimere appunto qualcosa in più, appunto con quello che abbiamo, ma anche per raccontare in maniera diversa le storie. Domani venite a sentirci, che abbiamo preparato una scaletta veramente importante. Se siete qua in città, veniteci a trovare. No, assolutamente è importante, sicuramente un grande evento, una bellissima presentazione del disco. Senti, ma Youssef riesce a cantare suonando la batteria, quindi canterà i brani? Sì, assolutamente, senza problemi. Sì, devo dire che anche lui gli viene molto naturale come cosa. Dice sempre che, perché i batteristi sono più abituati degli altri già a lavorare con gli arti indipendenti, quindi in qualche maniera rendere il corpo più indipendente una cosa dall'altra, quindi, e poi insomma abbiamo dei precedenti illustri, no? Perché dei cantanti batteristi, se vogliamo, da degli Eagles alla nostra PFM, ne abbiamo, certo, no? Di, sì, sì, sì. Precedenti. Assolutamente. Senti, invece hai già parlato delle premesse del disco e del perché è un disco con momenti più intimisti e meno muscolare, tra virgolette, ma in termini proprio di come sono arrivati, come è arrivata l'ispirazione, come avete lavorato in studio, è cambiato qualcosa rispetto ai precedenti? Sì, beh, innanzitutto la consapevolezza, diciamo, in senso assoluto è diversa, sai, album dopo album, abbiamo la fortuna di volerci bene, stare insieme, sai, le band, come cantava Carboni, le band si sciolgono, noi invece dopo 11 anni siamo ancora qua, e devo dire che è un grande privilegio poter condividere la quotidianità, la musica, la scrittura con due artisti eccezionali, due uomini proprio eccezionali come Youssef e Blake. Questo lo dico proprio perché non è scontato, non è quelle frasi fatte che si devono dire, no, perché lo dico perché proprio lo penso proprio nel profondo del mio animo. Detto questo, la differenza, ci sono almeno due differenze sostanziali rispetto al passato. Una è che il tempo di raccolta dei brani è più ampio, cioè sono brani che abbiamo scritto da 3 anni a questa parte, quindi di solito erano cose che era più a ridosso, diciamo, della pubblicazione, invece qui abbiamo raccolto veramente tanti pezzi, oltre una ventina, per poi registrarne una quindicina e alla fine metterne 10 nel disco. Quindi abbiamo raccolto tanto materiale, e poteva avere anche, come dire, un'architettura diversa l'album, noi invece abbiamo deciso proprio volutamente di dare questo tipo di sonorità. Poi in ultima istanza ci tengo a sottolineare che abbiamo avuto un produttore esterno, abbiamo già lavorato con Gaudi, che è un amico, sì, che tu conosci benissimo, sì, assolutamente, per un EP. E anche qui abbiamo lavorato anche con Tommaso Colliva. Scusami, non volevo dire che Gaudi è anche di casa in termini di musica qui a Pandemonium, hai detto Tommaso Colliva? Sì, no, Gaudi, ripeto, scusami, mi fermo un secondo perché Gaudi gli vogliamo un bene grande. Proprio, abbiamo imparato a conoscerlo, gli vogliamo un bene grande, grande, approfitto per salutarlo. E tra l'altro l'ultimo disco che ha fatto a cavallo tra la sì, DAB e jazz è una figata stupendo, totale, capolavoro. Ad ascoltarlo. Sono d'accordo. Proprio un discone sì, proprio di quelli verbelli. L'abbiamo ascoltato in anteprima a casa sua a Londra, devo dire che mi aveva proprio già fatto cadere la mascella, ma si è confermato bello. Tornando, Pier, caro, alle nostre cose... E abbiamo avuto con noi la produzione artistica, che come dire, per spiegare magari a chi non sa esattamente cos'è, è come mettere il vestito, diciamo, un po' addosso alla canzone, ecco, quella è la produzione, cioè la canzone è la melodia, no? E il divenire di accordi e melodia del brano, e l'arrangiamento, la produzione è proprio il vestito che ci mettono su, certo, questo, cioè, un po' il suono, se vogliamo, no? E Tommaso è stato eccezionale, Tommaso è produttore veramente con i fiocchi, ma ci tengo a sottolineare anche il lavoro che ha fatto Bruno Germano del Vacuum Studio, perché questo è il nostro primo lavoro registrato a Bologna città. Ok. E Bruno è l'ex chitarrista, forse te lo ricordi, Pier, dei Giardini di Mirò. Sì, certo. E che fa il produttore adesso per Io sono un cane, Daniela Pesce e altri, ed è bravissimo, ha registrato da lui, ci siamo trovati veramente bene insieme a Tommaso, ci ha dato veramente un grandissimo aiuto umano e professionale a cercare il suono che avevamo in testa. Benissimo, senti Aldo, quindi questa sera c'è già il CD, c'è il merchandising, invece il vinile, come abbiamo detto, uscirà prossimamente e penso sia comunque ascoltabile sulle piattaforme e anche acquistabile sotto forma di download digitale, ovviamente legale. Certo, si può fare tutte queste cose qui, appunto il CD ce l'abbiamo già, i vinili sono anni dove il vinile è tornato di moda e sinceramente ne siamo anche contenti. Se c'è da aspettare, aspetteremo, tanto non c'è altri mesi. Ma sì, certo. E quando arriverà la primavera ci sarà in vendita anche quello, e così nel frattempo si può ascoltare il disco. Devo dire che l'oggetto del vinile sarà bellissimo, perché il packaging, la copertina è veramente straordinaria, proprio vedrete, già il CD è bellissimo e ovviamente il vinile che è tutto più grande, più ampio, e insomma sarà veramente un bello oggetto. Ma intanto ci godiamo la musica. Certo, io tra l'altro, Aldo, sono sicuro che avrete un altro anno ricco di soddisfazioni sulla scia del disco nuovo di Behind the Eyes. Mi dicevi che non ci sono date oltre questa vicine dalle nostre parti, probabilmente si andrà all'estate, per cui è un ulteriore invito a tutti, sia i fans che quelli incuriositi, ad andare domani a venire domani all'Estragon a vedervi. Io, Aldo, ti saluto, ti ringrazio e ti faccio i complimenti. Io